Convocati di Carlo Genta. Allora ragazzi, questo è l'ultimo appuntamento dichiaratamente registrato dopo quelli di Natale, di Santo Stefano, di tutti i convocati. Pertanto, mentre ci state ascoltando e sarà il primo dell'anno, quindi viaggiamo nel futuro, Pierluigi Pardo è allungato su una spiaggia caraibica e Maurizio Crosetta per le vacanze in Sidecar dopo Cardiff. Allora, questa puntata la vorrei sottotitolare Voices, le voci che vi hanno fatto compagnia a tutti i convocati nel 2017 e quelle che saranno con voi nel 2018. Ciao Pardo. Ciao. Beh, Pardo è padrone di casa insieme a me. Maurizio Crosetti, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, buon futuro per Dio. Buon futuro. Dove mi porti in vacanza con il Sidecar? Io pensavo alla periferia di Kiev, ma prima bisogna capire se ci porterà la Juventus come l'anno scorso a Cardiff. No, e su questo chissà, il futuro ci dirà. Chiamo l'avvocato, periferia di Kiev non ci vengo con te. È bello, col Sidecar sai che ti fai la permanente, la sfumatura bassa, come si lascia dice una volta. Lascia stare. In Russia, in Russia. Ragazzi, in Russia, sì, ecco. No, sono luoghi che ho già visitato nella mia carriera. Grazie, preferisco andare da Pardo ai Caraibi. Sentite, io vi voglio buttare lì qualche cosa di un'originalità spaventosa, dato che siamo registrati, dato che la cronaca non la possiamo toccare e tutto questo è vero, è reale. Allora, che cosa c'è di meglio degli Oscar del calcio, della vita in questo 2017? Io e Pardo siamo già combattuti sul miglior calciatore assoluto, penso ci siano pochi dubbi, no ragazzi? Beh, direi Brignoli sicuramente, no? Avrete Brignoli. Immagino votato lui. Sì, esatto. Un portiere che fa un gol di testa al 95esimo, altro che Cristiano Ronaldo. Io voto Brignoli, non c'è dubbio. Tu Pierluigi. E voto, anche direi il Pordenone in blocco. Tutti gli 11 divisi in frazioni di uno. Diviso per tre con il resto di due. Tu? No, io voto Cristiano, alla fine dopo lunga riflessione, lungo ballottaggio, alla fine prendo lui perché insomma siamo in un'epoca ormai bipolare, quindi Cristiano o Messi, un po' come poteva essere una volta fra Borg e McEnroe o come è stato poi fra Federer e Nadal, ormai è una, anche in uno sport di squadra poi alla fine il dibattito è fra quei due e Cristiano se lo merita. Che palle ragazzi, io non voto nessuno. Allora, vabbè, facciamo così, miglior libro letto in questo 2017 non vale quello di Pardo. Direi Patria di Aramburu, un libro meraviglioso che parla in apparenza della guerra civile basca, in realtà nella sostanza parla di come ci si divide anche tra i vicini, tra i prossimi, tra i parenti, dentro noi stessi, quando c'è di mezzo il dolore, quando c'è di mezzo la necessità di dover scegliere. È un libro meraviglioso. Quando ricomincio a scrivere, Cross? Io non smetto mai. Che stai scrivendo? Che stai... Dipende, io sono un giornalista, quindi sono un centometrista, ogni tanto provo a fare il maratonetta, vediamo, chissà. Intanto è registrata questa puntata, magari il primo di dai, non sarò neanche più vivo. Esatto. Magari muoio. È una delle grandi scommesse delle registrazioni, mio caro Crosetti. Esatto, io apprezzo molto il tentativo disperato di Carlo Genta di uscire da quello che è il vero Oscar dell'anno, e cioè il miglior giocatore italiano in quest'anno. Io te l'ho detto prima fuori onda, perché parlavamo anche fuori onda prima, chi è il miglior giocatore italiano di quest'anno? Non assegnato, secondo me Oscar non assegnato, perché non puoi dire il miglior giocatore italiano nell'anno in cui non vai ai mondiali, quindi io non lo assegno. Facciamo una cosa, ognuno ne tira fuori uno, facciamo delle nomination e poi decidiamo. Dai, Maurizio? Il solo fatto che ci sto pensando da 4, 5, 9 secondi e che non mi sia venuto di colpo può essere già un indizio, è anche un po' un rumore di unghie sui vetri, magari si sente, sto scivolando lì. Però certo, i mondiali non ci siamo andati, certo la Juventus ha vinto tutto, è andata in finale di Champions anche se l'ha persa. Mi sembra difficile uscire, se dobbiamo proprio sceglierne uno, dagli juventini, e forse Buffon è un po' banale, però forse Buffon. Sì, alla carriera. Un po' sì, però insomma è un anno in cui non abbiamo avuto il Totti, non abbiamo avuto il Del Piero, il Rivera, il Gigi Riva, cioè quest'anno non c'è stato. Non c'è stato e non c'è da un po' chiaramente d'anno. Chiaramente migliore non c'è stato. Pier? No, è un casino. Mi verrebbe voglia di dire Insigne, perché poi alla fine era per la nazionale il giocatore incompiuto, che forse ci avrebbe salvato, forse, perché poi non ne possiamo essere certi. Sì, quindi diciamo come nomination ti dico Insigne, poi voteremo. Buffon, per carità, è un evergreen, voglio dire, stiamo parlando di una leggenda assoluta, però insomma io voto Totti alla carriera. Voto Totti alla allora mi piace vincere facile. Voto Totti alla carriera, ha dato l'addio al calcio, miglior giocatore italiano, io voto per questa stagione disgraziata, io voto lui. Poi fate vobis, scegliete chi ne avete voglia. Quanto invece al miglior calciatore straniero? No, perché voglio dire, poi ci potrebbe essere Ciro Immobile per la continuità che ha avuto nell'ultimo periodo. Forse Ciro Immobile può essere una... Non so nemmeno io. Dura, durissima. Improba. Miglior giocatore straniero, ma del nostro campionato? Sì. Eppure qui, voglio dire, si poteva... Ma forse Icardi, è che bisognerebbe ripassare i 12 mesi. Guarda, io... In realtà nella prima parte della stagione c'è stato un grande Dzeko. Poi c'è stato un grande Dybala, dubbiamente, insomma, però certo gli ultimi 3 mesi, poi darlo in questo momento a Dybala fa un po' effetto. Icardi? Facciamo Icardi anche tu, Maurizio? Sì. Icardi con una forte presenza di Milinkovic-Savic, che io credo sia il più forte centrocampista d'Europa. Mi fa impazzire. In questo momento, forse del mondo, forse. Ecco, però certamente ci 12 mesi. E poi Dybala, certo, non possiamo dimenticare quest'ultimo periodo fosco, però nemmeno quell'altro. Insomma, non è che lo paragonavamo sbagliando a Messi, era esagerato, però è vero, in Champions si è fermato i 2 gol contro il Barcellona e non l'ha vinta la finale. Però cose belle ne ha fatte tante. Poi ci sono sempre i gol di questa stagione, comunque i primi 12 gol nelle prime 8 partite, cioè non è è sempre molto difficile dare gli Oscar sui 12 mesi, perché chiaramente la memoria tende a ricordare con più nitidezza le cose recenti e invece in maniera più sfocata le cose di qualche tempo fa. Però insomma aveva cominciato bene pure questa stagione, quindi io sono indeciso tra Mertens e Nainggolan, vi dico la verità. Poi c'è Mertens. E Nainggolan, anche secondo me, è il vero segreto di Pulcinella della Roma dell'anno scorso e di quest'anno. E anche Mertens, ragazzi, è un casino. Dai, sugli stranieri andiamo meglio. Sugli stranieri c'è la stessa difficoltà a scegliere, ma per abbondanza di possibilità, il contrario di quello che succede con gli italiani. Cioè, Maurizio, c'è un giovane che ti è piaciuto in modo particolare? Un giovane che mi è piaciuto, Insigne, io comunque continuo a metterlo lì, poi tu dici una rivelazione, forse vuoi un nome un po' più verde, però tra i giovani Insigne lo è sicuramente, dico lui, poi ne sono usciti parecchi, anche però, insomma, Verdi, anche lì. Visto che hai detto verde. Ecco, Verdi è molto forte. Poi capisci che quando lui giocava nel Torino e lo incontrava, era un bambino a comprare la brioche nella mia stessa, verrebbe fuori un grosso ciclopico e chi se ne frega. Però io sono un po' condizionato come giurato. Se sei in coda, arriva il bambino verde e prende il croissant con la Nutella, è chiaro che già senti di volergli un po' di bene, no? Mi suggerisce Giorgio De Luca Donnarumma. Io non lo voto Donnarumma, mi spiace, I'm so sorry. Che Donnarumma, se si fosse votato a maggio, probabilmente avrebbe vinto a mani basse. Poi da quel momento ha sbagliato tutto lo sbagliabile. Non me la sento. In campo e fuori, perché poi ripeto, il problema di Donnarumma è un problema di errori di comunicazione enormi. Poi uno può anche fregarsene, perché tanto a 6 milioni l'anno e chissà quanti altri, però io l'ho detto mille volte, insomma, ci deve essere una coerenza con chi ti rappresenta. Se tu crescere bene senza inimicarti buona parte degli italiani, facendo una bella figura di ragazzo bravo, quale immagino che sia, perché insomma non ho nessuna evidenza del contrario, per molestando che è giusto guadagnare un sacco di soldi, perché fai il calciatore, i calciatori guadagnano un sacco di soldi, soprattutto quelli bravi, e Donnarumma lo è, però insomma puoi anche fare delle cose un po' meno spregiudicate di quelle che si sono viste. Sì, veramente... questo è sicuro. No, ma insomma deciditi che cosa vuoi fare, non tanto da grande, perché grande lo sei già, vuoi andare avanti con Mino Raiola, vuoi andare avanti con il Milan, almeno ci sia chiarezza. Ragazzi, adesso vi voglio sentire scannare, poi so che Maurizio Di Corso mi mette un po' di ansia questa storia. Quindi, miglior allenatore è Sarri, che ha vinto tutti i titoli individuali possibili, dalla panchina d'oro alla panchina di bronzo, alla panchina d'argento, di platino, di diamante, oppure Allegri, che ha vinto lo scudetto, la Coppa Italia, andato in finale di Champions League? Stiamo parlando di sport dove i risultati pesano comunque tanto, non che pesi meno l'estetica, però io sono un tradizionalista, so che continuo a dire Juve, ma non sono juventino, lo giuro, però insomma Allegri ha vinto 2 su 3, la terza l'ha persa in finale, il finale a cui era arrivato per 2 volte in 3 anni, e Sarri qualche volta, pur nella sua bellezza, fa un po' fatica quando deve variare il registro e il programma del concerto, suona benissimo quei 5 pezzi, poi però qualche volta magari gli chiedono di provare con Schumann anziché con Bach, e lui va un pochino in crisi, quindi io direi Allegri, sì. Maurizio, grazie, non farci mai mancare la tua voce anche nel 2018. Ma spero che sarà così, se non fosse è per colpa vostra, naturalmente. Per colpa nostra, tra l'altro, a proposito di quello che dice, anch'io voto Allegri. Tanto lo salutiamo Maurizio, che ha da fare, anche se non è il primo di gennaio, dichiariamo. Ciao Maurizio. Ciao. Io voto Allegri e aggiungo però un aspetto, diciamo, qualitativo a quello che ha detto Colosetti, cioè non ci sono soltanto le vittorie dei trofei delle quali giustamente Maurizio parlava, c'è anche il fatto che nel 2017 Allegri è stato protagonista di una variazione tattica decisiva per la Juve, il famoso modulo 4-2-3-1 varato in Juve-Lazio, se non sbaglio era a febbraio, quindi proprio all'inizio della stagione, è stato decisivo per i successi della Juve, che poi è arrivata in finale, ha perso, non è un dettaglio, anche perché stavolta ha perso proprio male, non ha perso a testa alta come scrissi in occasione di Juve Barcellona 2 anni prima, con insulti che ancora oggi mi arrivano per la testa alta, ma la Juve con Barcellona aveva giocato veramente a testa alta, facendo una grande figura, con Real Madrid no, quindi non è un dettaglio quella finale persa così male, però è altrettanto vero che questa squadra ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia, è in corsa anche quest'anno, e Allegri ci ha messo del suo. Poi è ovvio che è la squadra più ricca d'Italia, quella col budget più alto, con più giocatori, questo è indiscutibile, però non sbagliamo, non si può secondo me togliere questo elemento qui, cioè la qualità del gioco di Allegri e anche i risultati che sono arrivati, che sono enormi. Allora Pierluigi, per chiudere, giochiamo a fantacalcio, prendi un difensore, un centrocampista e un attaccante. Un difensore, ma di che tipo? Nel mondo? No, in Italia, campionato italiano, fantacalcio italiano. Allora, il centrocampista è Nainggolan. Sì. L'attaccante Icardi, suppongo. Icardi, il difensore non è più Bonucci per ovvi motivi, ma potrebbe diventare Benatia il difensore. Benatia, io mi piglierei Skriniar, che è stata una grande rivelazione fin qui. Anche se di difensori che segnano ce ne sono in giro pochini, e quelli che ti fanno vincere la fantasia. È straordinario Skriniar, ed è una grande intuizione dell'Inter e di un mercato oculato che è stato anche preso un po' in giro quest'estate, perché non bisogna dimenticarsi che c'era da un lato la bulimia rossonera, alimentata dall'entusiasmo dei tifosi e della stampa, e mi ci metto anch'io, perché comunque insomma sembrava veramente stessero facendo le cose in grandissima, e dall'altro c'era un Inter invece che sembrava avere il braccino, invece ha pescato quelli giusti al prezzo giusto. Ora vedremo a gennaio che succede. Convocati. Allora, questa puntata registrata di nuovo di Tutti Convocati, come sapete, sottotitolata Voices, vogliamo farvi sentire le voci di tutti i convocati, le più note, popolari, frequenti di tutti i convocati. Tra queste, imperdibile duetto Marino Bartoletti, Leo Turrini, che è un cult. Allora, risentiamo questa chiacchierata datata pochi giorni prima di Natale, ma tanto è jazz. Tutti convocati. Ieri ero a tavola con Sergio Marchionne, che sicuramente più padrone di lui non chi c'è. Ha pagato nessuno. Leo, chi ha pagato? Chi ha pagato? Avete capito? No, ho pagato io perché lui è solo stock option, avete capito? Però voglio dirvi una cosa, qui siamo in coda, ma sono tutti sub, Silvio, Alfa Romeo, siamo fermi così, la tecnologia italiana, il meglio del meglio, cosa dobbiamo fare? Pensiamo sommessamente che il prossimo mondiale di Formula 1, dopo aver visto Hamilton da Fabio Fazio, creatura di Marino Bartoletti, lo vincerà ancora la Mercedes. Lo diciamo io e tutti gli amici qui in coda. Che pessimismo cosmico, ragazzi. Dobbiamo oggi essere realisti. Io prima ho citato Ebenezer Scrooge. E lo spirito del Natale presente, passato e futuro, almeno lasciaci una gioia. Io vi faccio sentire cosa ha detto invece a Leo Turrini e anche agli altri. Come si chiama? Sergione Conceição Marchionne? Sergione Conceição Marchionne, che è un uomo, il padrone. Prima ha detto Marino, ha detto ma mai nello sport manca la figura del padrone, no? Li ha evocati tutti. Ma uno ce l'abbiamo, devo dirvi, ieri c'era Montezemolo che si aggirava mestamente fuori dai cancelli di Maranello, chiedeva di entrare, non c'è stato verso, hai capito? Nonostante fosse al volante di un sub Stelvio dell'Alfa Romeo, niente, salutiamo anche l'avvocato sui suoi binari con Italo, eccetera, ma non può più mettere piede nella contea di Maranello. No, la storia va così. Nel regno, ragazzi, nel regno del cavallino. Quando si viene esiliato, come dicevano i latini, dura lex sed lex. Esatto. Marchionne, cosa ha detto ieri? Questa è un'azienda che ha 70 anni di storia e che ha contribuito proprio alla formazione della Formula 1 come sport. Il suo DNA è stato modificato dalla Formula 1. Non possiamo adesso creare una Formula 1 che non riconosce l'essenza, il DNA di questa azienda. Se lo fa, la Ferrari se ne esce. Che non può contaminarsi, andrebbe a ridurre la Ferrari a qualcos'altro, cosa che non è possibile fare. Quindi senza minacciare nessuno cercheremo di lavorare in una maniera molto precisa con i nostri collaboratori, ma non vogliamo in effetti, non vogliamo cambiare la Ferrari. Si parla di modifiche regolamentari, si parla addirittura, Marchionne dice, Marino, a Ferrari che potrebbe uscire dal mondiale, ma cosa sarebbe un mondiale senza quei marchi storici? Non il esiste, primo commento è in lingua ed è Sochmel, che vuol dire ci picchia, per l'indirindina. Più o meno, cioè, io adoro Marchionne, devo dire, se non altro perché è una persona franca e sincera, diciamo così. Però dov'era Sergio Marchionne? Fu con Cezio fra il 1964 e il 1975, e il maestro Leo mi può confermare, quando la Ferrari per 11 anni non vinse un titolo mondiale. Dov'era soprattutto fra il 1979 e il 2000, quando ugualmente posso la Ferrari non risponderti, caro Marino, era faceva l'avvocato studiavo. In Canada, cosa faceva? No, stava studiando la materia, perché adesso che lui è presidente della Ferrari siamo già 11 anni che non vinciamo, quindi voglio dire che ha approfondito l'argomento, capisci? Però noi dobbiamo renderci conto che quest'uomo, che da molti punti di vista c'è chi lo considera uno spregiudicato finanziere, uno senza anima, uno con una foresta di pelo sullo stomaco, però io vi vorrei dare due notizie che ve lo renderanno più umano, posso, col consenso del maestro Genta? Prego. Allora, io andavo sempre molto felicemente agli appuntamenti conviviali con Sergione e con Cesare Marchionne, perché essendo lui, come dicono gli anglosassoni, un chain smoking, uno che fumava in continuazione, io mi portavo le mie sigarette perché erano le uniche conferenze stampa al mondo rimaste che si poteva fumare. Ieri sono arrivato e mi ha detto: guardi che io dal 13 febbraio non fumo più. Per me è stato uno shock terribile. Dico: ma scusi, anche lei, ma non è possibile. Dico: ma come ha fatto? Mi ha detto: guardi, nessuna terapia, mi do degli schiaffi in faccia quando mi viene voglia di una sigaretta. Io ho pensato, tira fuori una foto con lo spillone di Montezemolo, no? Punta lo spillone e capisce che si è tolto anche il gusto del fumare. A, non fuma più. B, attenzione, alla fine del 2018 Marchionne ha confermato che lascerà FCA Fiat Chrysler, no? E resterà soltanto presidente della Ferrari e prenderà casa, mi ha detto, vicino dalle mie parti, diventerà un mio vicino di casa. Gli ha affittato un appartamento, capito? Hai già affittato l'affare. Ho adesso io voglio fargli conoscere col consenso di Marino tutte le più belle canzoni di Natale che ci sono nella musica leggera italiana, queste cose, hai capito? Marino mi potrà aiutare nella scelta perché lui ha una condizione da questo punto di vista, non solo da questo, assolutamente straordinaria. Io penso a quando verrà Natale di Antonello Venditti piuttosto che Natale di Pierangelo Bertoli, che era proprio di Sassuolo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, guardate che non sembra, ma anche Marchione è umano. Non sembra, ma me lo dici no, tu. Me lo stai... Non è uscito da Star Wars The Last Jedi, che ci sono i Stormtrooper, quelle balle lì, hai capito? I cloni. Non è un clone. Ieri mi sono reso conto che è umano, ha fatto pagare a me il conto, ma è umano. Scusate, in omaggio mio e Marino, che abbiamo amato anche il pop rock soul britannico, mettete tu dei Noise Christmas, voglio dire, no? Scusate, il pilota, a parte il santo bevitore come lo chiami tu, e non conosco canzoni finlandesi, ma ci saranno sicuramente perché ci sta Babbo Natale, però Stille Nacht, Heilige Nacht, Alle Schlecht, Einsenwacht, bisogna metterlo per forza. Scusate, ma a me va benissimo anche John Lennon, War is Over, perché è un super classico, dovreste trovarla anche a Mario 24. Ragazzi, ma noi troviamo tutto normalmente, cioè in 30 secondi, però abbi pazienza, il mio amico Gianmarco Veronato, che è un califfo della regia, ce l'ha messa tutta, era lì che smanettava appena tu hai dato i titoli, cioè, abbiamo avuto 30 secondi di tempo tra una coda e l'altra. Aspettiamo, Marino, ieri all'ombra sto pensando di... a chi ci ascolta, veramente. Si sta divertendo come un pazzo, ma si diverte come un pazzo, ma guarda, tu non hai idea dei messaggi, te li mando dopo. Va bene, ragazzi. Volevo, prima di chiudere con questo argomento, proprio sulla storia dei ritiri, qualcuno li avete visti tra Leo Turrini e Marino Bartoletti, e io dubito il 2017 delle capacità taumaturgiche del ritiro alla vigilia di Natale, però en passant, ieri magari in pochi se ne sono accorti, ma all'ombra di Spelacchio, mi suggerisce Giorgio De Luca, che io non sapevo cos'era, è stato consegnato, ci siamo accorti che ci sono le Olimpiadi invernali alle porte, perché abbiamo visto il presidente Mattarella consegnare la bandiera ad Arianna Fontana da portare a Pyongyang. Io non, sinceramente, avevo perso così il calendario, Marino. Guarda, ti dico soltanto, apro e chiuso parentesi, che non ho mai visto un ritiro arrivare a buon fine, almeno per quello che era il buon fine che si proponeva una squadra che ha fatto un ritiro, perché dopo il ritiro c'è l'esorcista, ricordiamocelo. oppure il Port Zambutin, ma questo forse lo conosce soltanto Leo, che era una specie di mago, strologo e speziale forlivese a cui tutti si rivolgevano quando la medicina normale non poteva più nulla, ma ho chiuso la parentesi. Olimpiadi invernali, io non le riconosco più, caro Carlo, non mi fanno vibrare, men che meno le Olimpiadi invernali che si fanno al mare, perché io mi vanto di ricordare a fatica Pyeongchang, come diavolo si chiama, però il fatto che tutte le altre gare, curling, che Dio lo salvi compreso, perché abbiamo grandi possibilità, si svolgono al mare, beh, mi hanno fatto passare un po' di poesia, e io come Leo di Olimpiadi ne abbiamo viste parecchie. Io sono rimasto fermo alle Olimpiadi invernali di Cortina, di Innsbruck, di Sapporo, di Scovalley, ma non dimenticare che si passa per questo paese, che non voglio ripetere perché sennò mi si annoda la lingua, ma le prossime Olimpiadi invernali si fanno a Pechino. Esattamente. Allora hanno ancora senso le Olimpiadi invernali, con tutto il rispetto naturalmente per chi vi partecipa, 6 punti interrogativi. Allora, tanto per cominciare, precisiamo che a Pechino, dove hanno fatto le Olimpiadi estive, tutti gli impianti del 2008 dei Phelps, Pellegrini e tutto il resto saranno riadattati, perché i cinesi sono molto più avanti, metteranno il ghiaccio al posto dell'acqua, no? Useranno le stesse strutture, quindi con tanti saluti al sindaco Raggi di Roma, saranno le Olimpiadi low cost, che, come sosteneva l'uomo che ieri purtroppo non ha potuto accedere oltre i cancelli di Monte Carlo, di Maranello, l'avvocato Montezemolo, no? Si sarebbero potute fare anche a Roma. Poi io integrerei la riflessione del mio maestro Marino. Noi abbiamo, noi italiani intendo, un problema nei confronti del periodo invernale, che purtroppo ci sono venute meno le grandi star della neve, perché quando ci sono stati Alberto Tomba, che ha compiuto gli anni ieri e gli facciamo tantissimi auguri, 51, bravo, e Deborah Compagnoni, invece le Olimpiadi invernali le guardavamo e ci fermavamo, gli uffici smettevano di lavorare. È chiaro che stiamo parlando per invidia. Le Olimpiadi hanno fermato anche il Festival di Sanremo nel 1988, voglio dire. Tu ti ricorderai il Festival di Sanremo nel 88. Vorrei dirlo io, no, è la canzone che vinse a Sanremo quando Tomba vinse a Calgary, io ero a Calgary, a Sanremo si fu un bravo, che era dedicato a Luca Cordero di Montezemolo al suo rapporto con la Ferrari, perdere l'amore di Massimo Ranieri. Non so se la regia di Carlo Genta ne abbia il ritornello. Adesso l'ho detto io comunque, non c'è problema. Lo so Marino che tu la conosci a memoria, anch'io, tanto è un pezzo magnifico, sinceramente. Uno dei tre più bei pezzi di Sanremo, Leo, ma di quell'anno, visto che si parla di Ferrari, c'era anche Salvi che cantava C'è da spostare una macchina. È un diesel. Che era quella di Vettel lì alla partenza, in cui non è riuscito a metterla praticamente in moto, perché è successo anche questo. Ma noi nel 2018, ve lo posso anticipare, avendo io pagato ieri il pranzo, saremo molto competitivi, ragazzi. Eccoci qua. Andiamo avanti così? Ma io penso che questa non sia più una trasmissione radiofonica, ma veramente un programma di culto. Ammetto che sbagliavo, è quello che ha detto Vettel Marchionne quando gli ha chiesto: ma com'è che tu là a Singapore hai preso quella curva alla partenza, hai capito? E lui, come Massimo Ranieri, ha detto: ammetto che sbagliavo. E vabbè, sono cose che avevo le mie colpe. Bravo Marino, grazie. Ragazzi, sentirvi parlare, io lo dico spesso a Giorgio De Luca, è jazz radiofonico, cioè è jazz in parole questa. Io vi ringrazio, vi abbraccio forte. Che devo fare, Marino? Tu hai creato tutto questo, dammi una mano qua perché non ci sto dentro. Io credo che abbia già ordinato il viaggio Antonacci nell'88, penso un po'. Veramente? Quell'anno è Giordito Antonacci. Sì, io penso di poter concordare con Marino, che ha veramente una conoscenza sbalorditiva. Però ricordatevi quello che vi ho già detto una volta a proposito di cantanti e canzoni, eh? Meglio Bobby solo che Mal dei Primitives accompagnato, che è un po' il nostro slogan natalizio. Tanti auguri a tutti, vi voglio bene. Sai quanto ve ne vogliamo noi, Marino Bartoletti e Leo Turrini. Convocati. Di nuovo Voices di Tutti Convocati, non cronaca oggi, Capodanno registrati, auguri che vi arrivano dal passato dunque, ma voci che vi hanno tenuto compagnia, ci hanno tenuto compagnia, mi hanno tenuto compagnia, le più frequenti, popolari, Tutti Convocati. E allora sentite questa, ribeccatevi questa, con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Cruciani a Caccia con Mondonico. Tutti convocati. Emiliano Mondonico, buongiorno. Ci perdoni. Potete parlare sottovoce? Perché sono Cascina? Sono a caccia di lepri. Perché il solito sapientone è venuto al bar dicendo che in questa località ci sono due o tre lepri. Siamo in un prato di 200 metri, i miei amici stanno passando coi cani dalla parte opposta, io sono qui sull'argine ad aspettare dove passano le lepri. E che ce n'è una sdraiata a 15 metri da me. Emiliano, e io la vedo in mezzo al terreno, Emiliano, al terreno arato. Aspetta, voglio sparargli, non perché poverina è bellissima, non voglio neanche far vedere ai miei amici che non sparo. E quindi gli sto girando attorno per farla scappare. Oppure spara in aria. Così scappa. Non posso sparare in aria, ma detto cazzo, l'hai sbagliata. No, gli sto girando attorno. Adesso piano. Un attimo che lei mi sta guardando. Passaci la lepre al telefono. Guardo i miei amici e mi dicono ok, perché i cani stanno un po' attaccando le tracce. Dov'è Cruciani? Un attimo che lo sto girando. Eccola, adesso c'ha la via libera nel vieni, sud Cruciani, vieni, vieni a portare un messaggio di solidarietà. Aspetta, adesso arriva Cruciani. Un attimo che mi avvicino. Lei mi sta guardando, ecco, io faccio finta. Entra il guerrafondaio. Di niente, i miei amici. Io sto con la lepre. Anch'io sto con la lepre. Siamo tutti con la lepre, Cruciani. Ma un attimo, che i miei amici mi dicono di stare attento. Io l'ho qui adesso a 5 metri. Un attimo, aspetta, Ecco, scappato. Mamma mia, come va? Sembra Ronaldo. È saltato sull'argine. Arrivano i cani, attenzione. Oh, no, posso è andata. I cani sono qui, l'hanno inseguita, però. Ecco. Non ho capito, Emiliano, sono i miei amici. No, Emiliano, ma perché non hai sparato la lepre? Tutti i miei amici mi stanno dicendo... Non l'ho vista! L'ho vista no! Sono hanno calendario! Si è rigirando Spali! Ma sì! Oh, che palle questi qui! Ma hai fatto bene! Dai, Cruciani! Ma hai fatto bene cosa? Ho capito che è il ciclo della vita, però dai! Ma c'era la lepre lì sdraiata da sola! Ma lascia, che bello che è andato! I cani l'hanno inseguita! Ma adesso stanno già tornando con fuori la lingua col cavolo che la prendono. Scusa Emiliano, ma quanto è bello. Non c'è più niente. Ti dico, in queste campagne cos'è una passera? Niente, non c'è neanche una passera. Tu dici questa frase qua, cioè, allora con Cruciani presente hai parlato di lepri e di passera. Scusami Emiliano, ma quanto bello è sparare a una lepre? Dimmi la verità. No, dai. Cioè, è bello perché la lepre, sai, ti prende in giro, è quella più difficile, però appunto, quando ce l'è lì ferma a 15 metri, che fa finta di essere una foglia, un mucchio di foglie, dai. Appunto, è bello quando la freghi, no? Ma dopo, dai. Basta, Cruciani, voglio continuare a mangiare la carne serenamente, in maniera laica. Le palle che mi fanno i miei amici... Perché non gli ho sparato? Spero che non ascoltino la radio, di modo che uno può non vederla. Ma non è che uno va a caccia per non prendere le lepri, va a caccia per sparare. Mi è saltato fuori alle spalle. Ti propongo di sostituire la caccia con il golf. Guarda, secondo me è una cosa sempre nel vero. Ma che sei diventato? No, sono sempre il golf. Che contro la caccia? No, non sono contro la caccia, però la scena di Mondonico a 10 metri dalla lepre, io di dirgli spara non me la sento. Sarò... Non prendi mai una posizione mi date una carica incredibile quando mi date ragione, non potevo sì, però adesso scappa dalle tue amici il conduttore di Tiki Taka contro la caccia contro il cacciatore manco i cacciatori ma no, però dai, con la lepre lì vicino, ma come fai a sparare con una che ti dice c'è una lepre ferma a 10 metri, come fai? Noi abbiamo una sensibilità che questo qui non ha, questo signore qui che è uscito non ce l'ha. Senti, posso chiederti veramente siete tutti dei non so, una volta si uccideva le lepri per mangiare le pensamenti, la mettono in freezer e marcisce nel freezer, adesso non c'è più bisogno, e questo qui mi ha guardato in faccia a 15 metri, era lì, mi guardava, che cosa gli faccio? Gli che sparo? Dici? Non gli spari, ma sono d'accordo. Un appello. In nazionale, Mondonico, bisogna mettere Giorginio e Chiesa. Mettetelo se volete, secondo me, con Giorginio e Chiesa, la nazionale. È molto più scusate logica. Ma io invece posso chiederti una cosa sulla lepre del campionato che mi sembra veramente la metafora perfetta. Il Napoli sarà una lepre che durerà? Assolutamente no. Perché c'è un'altra mini lepre che è la Juventus, che farà di tutto per stargli vicino. Sai, la lepre è Ronaldo, la mini lepre è Messi. Avete mai provato ad andare a caccia della mini lepre? Cioè, è una roba pazzesca. Che è la mini lepre? Le mini lepre sono quelli che hanno importato dall'estero. capisci? Tipo non il minigolf. Cioè, non hanno importato le passere, hanno importato la minilepre. Le passere. Per dirti, perché all'estero le passere non ci sono. Se, è un tipico, tipico qui, qui, questa qui affermazione. In Italia. Oddio. Senti, no, scusate, ragazzi, ha detto una cosa interessante che Giorgio, come si pronuncia? Giorgino e Chiesa. Giorgino. Allora, Chiesa, sono d'accordo al 100%, ma sono d'accordo anche su Giorgino. Cioè, ma siamo riusciti in un momento di difficoltà del Brasile a convincere, tra virgolette, Giorgino che era meglio l'Italia piuttosto che il Brasile. Abbiamo fatto passare un paio d'anni in cui il Brasile si è rimesso in sesto ed è diventata una delle squadre favorite al Mondiale 2018, e questo chiaramente, perché i giocatori fanno i cazzi loro sempre, ha mandato una bella lettera alla Federcalcio in cui dice: ragazzi, potete fare in modo che si cambino tutte le carte e io possa tornare a giocare nel Brasile? E alla fine ci riuscirà, vedrete, ci riuscirà. Non ha ancora dato una risposta Ventura sul perché non ha convocato Giorginho, che è una cosa... Il prossimo schema della nazionale, non so se sarà un 3-7 oppure un 2-8. È più facile il 3-7 perché basta lo che capiamo non ci di morto, più diciamo, ragazzi, vi prego. Allora, 3-7, avete giocato al 3-7 o no? Qual è la carta Emiliano. più importante del 3-7? Ragazzi, è l'asso. Un attimo, fermi tutti, state lì, non vi muovete. Però sono contento per la lepre, guarda. Aspetta. Allora, Emiliano, stai lì. È tornato il pointer. Anche lui non l'ha presa. Oh, sono qui i cani con fuori tutta la lingua. Stai lì. Attenzione, visto il momento straordinario di radiofonia, Emiliano Mondonico a caccia di lepri, sì. Luigi Pardo che è qui, Giuseppe Cruciani che ho trattenuto con la forza e rimane qua fino alla fine del programma, perché adesso abbiamo evaso l'argomento lepre e leprotto, bisogna affrontare l'argomento passera, e no, io non c'entro, l'ha deciso Mondonico. Scusa un attimo. Devo dire una cosa pubblica che ci riguarda. Quanti ascoltatori avete? Hanno già telefonato milioni. Un mio amico qui che è a caccia le passere, che è una balla dire che le passere non ci sono. Oh, non ne ho visto una io. Siamo pieni di messaggi. Ha ragione Cruciani, Pardo, capo dei Democristiani. Assolutamente, mi candido al congresso. Che Brocchi di Segugi, non si spara la lepre sul covo, ma quando corre, venisse con me a caccia. Ragazzi, qua c'è. Infatti, non gli ho sparato. Non gli ho sparato, hai fatto bene. Ho preso del coglione da tutti i miei amici. Ma l'hai fatto bene. Mi hanno telefonato, però sono incazzati più per le passere che per la lepre. Ma le passere. Non ci sono nella bassa Cremonese. Quante lepri hai ammazzato nella tua vita? Nella mia vita ne avrò ammazzato un paio. E altri? E passere? Le passere nessuno. Senti il rumore del naso che cresce. Le passere no. Diciamo che le passere è un uccello amico. È un uccello che vive attorno alla mia cascina. Cioè io gli do la casa alle passere per riposare, per dormire, per consolarsi, poi fanno i nidi e fanno dei passerotti. Scusa, una domanda, Emiliano, molto chiara. Dimmi. Ma secondo me, io ho una mia teoria, cioè il cacciatore è uno dei più grandi amici degli animali, cioè chi va a caccia è amico degli animali molto più degli animalisti che non vogliono la caccia, vero o no secondo te? Cioè tu li ami gli animali pur andando a caccia? Che vuol dire? No, ma io amo gli animali se io vado a caccia, però tutti gli animali che ho, e ti sto parlando di galline, di oche, di pavoni, cioè muoiono di vecchiaia, perché se voi non lo sapete, gallina vecchia fa buon brodo, perciò io li faccio così andare avanti, e quando sono così, tac, ecco che mangio il brodo buono. Anche lì la gallina vecchia fa buon brodo. Ma voi dovete seguire un po' queste filosofie, queste mode di dire, questi proverbi dei nostri avi. Gallina vecchia fa buon modo. Questa la sapevamo. Perché le uccidete prima? Lasciatele morire di vecchiaia. Che fanno un brodo che è una meraviglia. No, ma aspetta, allora io no, vorrei chiudere, io vorrei chiudere il momento Zanzara e chiedere una cosa su Meroni. Meroni. Ecco Cruciani. Che c'entra Meroni? Ma come? Che c'entra Meroni? Ma non avete letto Crosetti oggi su Repubblica? Ma chi ha letto Crosetti? Sì, può, dai, va bene, ma chi importa? Sono 50 anni, 15 ottobre. E che ci frega dei Meroni? Ma come che ci frega? Ma no, c'è fraggenza assoluta. Non dite così di Meroni. Esatto, dai. Ma non dico oggi. Che io domani alle 19 sono a Como per l'inaugurazione di un museo dedicato a Gigi Meroni. Però tu l'hai definito. No, io sono stato il sostituto di Meroni, poi dopo avevo più la testa di passera che non di bravo, non di ma io lì voglio tornare. E allora, però domani sera sono lì. Ma tu hai detto che è stato un uomo che ti ha aiutato a vivere anche fuori dal campo, ha aperto gli occhi. Ragazzi, ma Meroni era attorno al 68, Meroni è uno di quelli che ci ha svegliato tutti quanti noi giovani. Esatto. Che eravamo non sottomessi, però sottoposti al taglio di capelli, sottoposti a dire il signor sì. Cioè, Meroni è uno di quelli che ha incominciato a farci capire che forse non era giusto dire sempre signor sì. E noi lo ricordiamo 50 anni dopo, anche se non ero nato, e sono felice di aver contribuito al salvataggio della lepre, caro Cruciani, che si è salvata. Ciao ragazzi, ciao, la lepre ciao, salva ciao, noi lepre, più o meno pure. La lepre mi ha detto di ringraziarvi. Sì, anche noi ringraziamo lei, magari un giorno ci ammagniamo pure. E viva quella maglia numero 7. Maglia numero 7. Quella là. Bravissimo. Del signor Meroni. Ciao a tutti. Ciao. Convocati. Puntata di Capodanno registrata, ragazzi, non chiamate perché tornerò in diretta domani e tutti convocati a regime normale. So che si sta giocando, ma questa puntata si intitola Voices, le voci che avete sentito in tutti i convocati, le più frequenti del 2017 e quelle che sentirete nel 2018. Allora, ovviamente Pierluigi Pardo e Crosetti all'inizio, poi Marino Bartoletti e Leo Turrini imperdibili in coppia, poi Emiliano Mondonico con Cruciani guest star, e adesso chi ci racconta le due ruote? Beh, The Voice del moto mondiale Roberto Ungaro. Ciao Roby. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Abbiamo provato a dare gli Oscar a calcio, lì è molto difficile, più semplice dare gli Oscar miglior pilota del 2017, miglior pilota italiano, miglior moto del 2017. Vai. Beh, è facile dirlo perché lo dice la classifica, il miglior pilota è Marquez, lo ha dimostrato. La miglior moto direi Ducati, perché alla fine è stata una rivelazione, così come il miglior pilota italiano, Dovizioso, che l'anno prossimo deve solo confermarsi, questo è. Ma io, Carlo, mi auguro una stagione come quella di quest'anno per l'alternanza dei risultati, ma non dovuta alla gomma, perché Michelin ha fatto un gran casino, lo sappiamo tutti, portando gomme nuove, carcasse differenti, ha mandato in crisi Vignales, dopo Mugello sai che è andato in crisi, non è più riuscito a essere competitivo, e allora cambia telaio, torna quello vecchio, insomma ha fatto un gran casino. Le ultime prove non si sa se hanno trovato il bando della matassa. Valentino e Maverick hanno idee differenti sulle moto, vedremo se Yamaha tornerà ad essere la moto competitiva che è sempre stata. Parliamo di Honda solo conferme, perché alla fine ha dimostrato di essere la moto più in forma, a parte Ducati, grazie soprattutto a un pilota che fa la differenza, Marquez. A Honda ci si aspetta un Pedrosa più costante, perché non può più vincere una o due gare a stagione. Ducati, che dire, l'abbiamo detto, sarà la stagione delle conferme per Dovi e soprattutto per la vittoria di Lorenzo, che non è arrivata quest'anno. Suzuki, il più grande punto di domanda, perché non si sa se i test hanno detto la verità o meno. Iannone dice sì, abbiamo risolto i problemi, ma secondo me sono ancora lontani. E poi attenzione, perché alla fine della prossima stagione Tana liberi tutti, Carlo, perché scadono i contratti, e allora vedremo se il KTM riuscirà a strappare Marquez alla Honda. Lo abbiamo già detto, perché è l'unica marca che può togliere Marquez da quella casa, perché Honda non paga tanto come ingaggio, poi ci sono i premi gara, certo, i premi di campionato, no? Quindi l'unica che può mettere sul piatto una cifra irreplicabile per gli altri è KTM grazie a Red Bull, e KTM sta diventando competitiva perché nell'ultima parte di stagione, i suoi due piloti abbiamo visto soprattutto nelle prove, non in gara, che però erano i top 5, e quindi calcoliamo, Carlo, che KTM è partita da zero, sia certo, come moto, certo, motore, ma anche come sospensioni, per esempio, perché tutti utilizzano Hollis e hanno i dati degli anni precedenti, quindi l'evoluzione è costantemente sotto controllo. Invece KTM, che usa World Power di proprietà, è dovuto partire da zero, cioè pensa cosa vuol dire non avere valori su cui costruire la tua messa a punto. Quindi secondo me sarà un crescendo, stagione sicuramente interessante. Io spero che il lago della bilancia non sia più quella cosa tonda e nera, chiamiamocene. Sarà difficile, mio caro. Noi ci illudiamo, ma sarà difficile. No, io per andare sui piloti italiani volevo fare l'originale e dirti Tony Cairoli e Morbidelli, che ha riportato l'Italia in cima al mondo. Non sai quanti ti amano dicendo questa cosa. Io ho parlato della classe regina, ma non ci possiamo dimenticare sì di Morbidelli, che ha riportato dopo 8 anni il titolo della classe non regina, e vedremo se conquisterà il premio di rookie dell'anno, perché l'anno prossimo potrebbe essere il debuttante migliore. Stiamo a vedere. E soprattutto il grande Tony, l'hai detto tu, lui ci regala le soddisfazioni, pochi lo dicono, pochi lo sottolineano, e quando lo fanno con poco tempo, come abbiamo visto recentemente sui canali principali della televisione, però almeno c'era, e quindi grandissimo Tony, speriamo che continui così. Senti, poi lo dici tu che sei un crossista, quindi quelle cose lì ti appartengono e ce le hai tatuate nell'anima. Mi dai un voto al Valentino del 2017 e un'idea su come possa essere il suo 2018? Guarda, Valentino all'inizio del 2017 era veramente carico. Ho parlato recentemente con persone dentro il settore e mi hanno detto che l'hanno visto motivato come non mai. Addirittura, senti questa, buttiamo lì una provocazione, noi di Radio 24. Senti cosa ho sentito. Che all'inizio, vedendo un Vignales così vincente, Valentino ha addirittura scelto la moto contraria a quella che usava lui, piuttosto di non vedere Vignales così vincente, così competitivo. Quindi Valentino ha optato per un telaio che poi non si è rilevato vincente, per non dare questa, diciamo, soddisfazione, per far sì che Vignales non continuasse nel suo ruolino di marcia, che era incredibile. Ho sentito perfino questa, e secondo me farà parlare, non so se sia vero, perché secondo me è un pilota, quando fa di tutto pur di, non può scegliere la strada sbagliata, è inconcepibile, ma ho sentito perfino questo da delle persone che sono dentro, quindi, e secondo me il Valentino 2017 all'inizio era veramente competitivo, sì, e sì, il 2018, Carlo, sarà importante. Abbiamo parlato di mercato, a parte KTM Markets, Tana liberi tutti, perché secondo me verso giugno capiremo cosa vorrà fare da grande Valentino, se andrà avanti anche nel 2019 o si fermerà. Secondo me prima dell'estate avrà preso la sua scelta in base anche ai risultati. Certo, chiaro. Senti, ci risentiamo nel 2018, quando ovviamente ti rimetterò con il tuo compagno di banco privilegiato Leo Turrini. Bisognerà trovare un argomento di discussione oltre Iannone. Io da un lato Belen, sono felice, perché Iannone si è mollato con Belen. E quindi non ti rompe più le scatole. Bravo, il mono tormentone non ci sarà più. Speriamo, ma vedrai che ne trova un altro dalla Pero Cormano. Non ti preoccupare, vedrai che un altro lo trova, stai tranquillo, è inesauribile. La quarta corsia, che la costruiscano, così non rimane più in la Pero Cormano, e Leo sarà più scorrevole, soprattutto nelle sue richieste, nei suoi argomenti. Ma lui gira in calesse, tu lo sai, quindi sarà in coda, è in coda perpetua sulla Pero Però Cormano. Un calesse rosso. Un calesse rosso, bravissimo. Ciao Roberto, ciao, presto. Carlo, ciao. Grazie Roberto Ungaro. Allora, dalla regia, in questa registrazione che va in onda il primo di gennaio 2018, mentre noi parliamo dal passato, dall'anno precedente, mi stanno amabilmente pigliando per il culo perché voglio fare il DJ. Allora faccio Ringo, Albertino DJ, ce n'è un altro? Ditemene un altro. No, non c'è. Perché Linus, bene, faccio Linus molto più magro di me, ma comunque... non esisterebbe Tutti Convocati senza le sonorità di Tutti Convocati. Quindi io voglio salutarvi celebrando il maestro Ferronato, Gianmarco Ferronato, il nostro regista, che è l'autore di tutti i montaggi che sentite, di tutte quegli artifici sonori che fanno e sono parte integrante di Tutti Convocati. Mi sembra di stare a fare lezione. Allora, invece di questo, io vi saluto insieme a Giorgio De Luca e appunto a Gianmarco Ferronato. Lascio a lui la scelta dell'Oscar sonoro di Tutti Convocati 2017. Per il 2018, keep in touch, perché risentiremo delle altre. Allora, the winner is this one.